A Bologna, sì, noi siamo abituati a vedere Bologna come centro dove ci sono, c'è una forte animazione del territorio, di cittadini che cominciano a dire basta col consumo di suolo, basta con le opere inutili, basta con la devastazione del verde, il taglio degli alberi. Sono anni che a Bologna i comitati stanno mettendo in atto una serie di iniziative che in alcuni casi sono andate molto bene, in altri presentano ancora criticità. Ma quello che vogliamo fare, partendo da Bologna, è mostrare come appunto noi siamo soliti guardare al capoluogo, ma tutto intorno il territorio è pieno di movimenti, vertenze, iniziative. E proprio per questo alla fine la carovana convergerà su Bologna, dove a metà giugno ci incontriamo tutti. Ci incontriamo tutti perché è importante coordinarsi per trovare altre iniziative su cui e altri obiettivi su cui convergere. È importante mettere insieme tutti perché attraverso la presenza e l'attivazione di tutti crescono i saperi, le competenze e le capacità di lotta, che in questa regione sono fondamentalmente quelle legate alle contraddizioni tra lo sviluppo e l'ambiente, che invece viene devastato. Per cui i temi che tratteremo, insomma, sono questi, no? È la raccolta di tutto quello che la carovana ci porta, e ci sembra molto molto importante risottolineare come ci troviamo in una regione che è considerata un gioiellino a livello nazionale per le proprie politiche, ma che in realtà si sta dimostrando, no, fallimentare, perché ha seguito quella crescita, quel modello della crescita e dello sviluppo che non hanno portato a migliori condizioni sociali. Anche in Emilia Romagna aumenta la povertà, anche in Emilia Romagna le condizioni del lavoro peggiorano, anche in Emilia Romagna la sanità sta soffrendo molto, ed è evidente che queste politiche vanno veramente ribaltate e rovesciate. Il momento del convegno sarà un momento particolare per far emergere tutte le proposte che invece noi abbiamo. A Bologna è evidente che l'amministrazione sta facendo delle scelte che sono contrarie al senso comune. Insomma, andare a distruggere un parco al Pilastro per metterci un museo che la gente del luogo non vuole dimostra come ci sia poca attenzione, poco ascolto, poco capacità da parte dell'amministrazione di connettersi con i bisogni della gente che vive sul territorio. In prospettiva c'è tutto lo sviluppo della zona Bertalia Lazzaretto, dove si vogliono di nuovo distruggere terreni e tagliare alberi in nome di che cosa? Di uno sviluppo dell'edilizia che trasforma questa città in un posto per ricchi, da cui invece le fasce più deboli devono allontanarsi. Insomma, quindi mettiamo insieme questioni ambientali con questioni sociali. La distruzione dell'ambiente va di pari passo con la distruzione e il peggioramento delle condizioni di vita delle persone. Su questo domanda che ti faccio, no, rispetto al piano quinquennale presentato da Lepore nei giorni scorsi, avete una posizione, c'è cioè una posizione da parte della rete, dei coordinamenti? No, guarda, per ora ci sono tante idee rispetto al piano. Verranno tutte le nostre critiche, le nostre elaborazioni, ma rispetto a un programma elettorale, insomma, noi non abbiamo al momento idea di proporci in termini elettorali. Okay. Se ne sta parlando, non escludo che ci possano essere delle proposte, però per ora non mi sembra che stiamo pensando a quello, anche perché ci sono sembrate molto efficaci le lotte dei quartieri, le lotte dei territori, che comunque sono riuscite a portare a casa dei piccoli ma forse significativi cambiamenti. La lotta del Don Bosco, che voi conoscete bene, è stata la dimostrazione di come anche stando fuori dalle istituzioni i cittadini possono ottenere delle vittorie.